Io non so se voi avete voglia di dire qualcosa, se ci sono altre domande. A me piacerebbe molto sentire la voce di un geografo che sta lì tra il pub e di un... Però io ti vedo geografo perché ti occupi di mappe, per cui per me l'uso, insomma, la cartografia, l'uso della cartografia è un altro degli elementi importanti in questa vicenda. Però... Va bene, dico due cose, ma giusto così al volo, nel senso che ero venuto veramente per sentire, quindi non è che mi ero preparato. No, allora, riguardo al fatto della geografia, raccontava Stefano, venendo qui, del fatto che insieme, insomma, a un gruppo di persone stiamo lavorando su, appunto, sulla geografia di quello che veniva chiamato dagli italiani il Levante arabo, e cioè Palestina, insomma, tutta la zona arabofona che si trova al levante del Mediterraneo. Ed è molto interessante vedere quanto, anche facendo una critica delle nostre parole, no? Di quello che noi diciamo quando indichiamo i luoghi, quando facciamo, eccetera, che c'è tutta una storia di come gli italiani hanno chiamato quel luogo, no? E se non che, quando è stato ieri, ho acceso la televisione, cosa che faccio una volta ogni, non so, 25 anni, e c'era il Papa che parlava di pace in Terra Santa. Adesso questa Terra Santa, no? Voi immaginate la Terra Santa, il concetto di Terra Santa. È un qualcosa che non ha un riferimento se non, no? Nella storia del cristianesimo, di come il cattolicesimo ha chiamato quell'area, ha visto quell'area, al che ho iniziato a pensare a tutti i libri di geografia, fra virgolette, fantastica che ho visto nella mia vita, ad esempio quelli che iniziavano con la nascita dell'universo, no? Del mondo. E nascevano con appunto questa terra santa da cui poi si espandeva la civiltà e così via dicendo. Cioè nel 2024-25 siamo ancora qui con uno che si alza la mattina e dice terra santa, no? E questa cosa la vediamo anche nelle mappe. Vediamo che per tutto il periodo prefascista dell'Italia liberale, ma anche fascista, c'erano due tipi di mappe di quella zona lì. C'erano delle mappe militari che facevano vedere, non so, gli inglesi contro gli ottomani, insomma, un fatto proprio strategico, eccetera. E poi c'erano le mappe che si facevano vedere alla gente, che era la Terra Santa. Per cui quello che adesso è la Palestina e tutto quanto veniva suddiviso in Samaria, Giudea e così via dicendo. Come se ancora lì nel 1920, 30, 10 e tutto quanto ci fossero quelle cose lì che non c'erano in quel momento. Raccontavo anche di questa cosa, per esempio, di Gaza, no? C'è una mappa del 1918 degli inglesi che suddivide tutta l'area in zone amministrative, e c'è anche l'area di Gaza. Ecco, l'area di Gaza era gigantesca rispetto a quella striscetta che poi noi adesso chiamiamo Gaza. Cioè, come dire, la regione di Gaza era una regione ampissima. Certo, c'era un sacco di deserto in mezzo e tutto quanto, ma c'era anche un porto. Era la Palestina del Sud, era il luogo dove c'è anche, appunto, per parlare di archeologia, un'archeologia che di ebraico c'ha, perché c'ha, ma c'ha anche tantissime altre cose, cioè c'ha tutta una storia di relazioni mediterranee, di popolazioni che non c'entrano niente con gli ebrei che sono state lì per secoli e che si sono mescolate e così via dicendo. E l'altra cosetta che volevo dire è che, appunto, visto che lavoro in una biblioteca che in realtà è una biblioteca coloniale, non si sa, però c'è in Italia una biblioteca di quello che era il Ministero delle Colonie, perché noi abbiamo avuto un Ministero delle Colonie, sebbene molti l'abbiano dimenticato, e io lavoro in questa biblioteca e cerco di capire cosa c'è dentro. E alcune cose che ho trovato, appunto, su Israele sono molto interessanti. Per esempio, c'è tutta negli anni 60-70 quella che veniva chiamata proprio dichiaratamente archeologia biblica, che è un mostro metodologico, se ci pensate, l'archeologia biblica, no? io da un montarozzo inizio a scavare e vedo quello che c'è, poi capisco cosa c'è sotto. Non è che dico, ah, adesso andiamo a vedere, no, la Bibbia. La Bibbia diceva che lì c'era un posto, andiamo a scavare lì a vedere. Ah sì, ecco, guarda, ho trovato una pietra che proprio corrisponde a quello che dice la Bibbia. Ma di che cazzo state parlando? Cioè, è pura, no? Pura monnezza, pura fuffa, no? E anni 70, 80, eccetera, l'editoria italiana è stata... ho pensato a questo libro, proprio si chiamava Archeologia Biblica, ha avuto 3-4 edizioni, capito? Non è una cosa, no, che dici... che è un qualcosa che poi passa nella testa delle persone, si inizia a pensare che anche l'archeologia debba essere una cosa per cui tu vai a cercare, no? Andiamo a cercare i Sumeri, andiamo a cercare partendo da un libro, cioè non bisogna arrivare al fondamentalismo quello americano, no? Così per capire quanto sia assurda, no? Questa cosa qua. E quindi un papa che dice Terra Santa, questa archeologia biblica. L'ultimo libro che mi è capitato di sfogliare è un libro che parla di uno scavo archeologico appunto in Israele, ed è un libro molto particolare, perché ci sono questi archeologi che appunto vanno a fare archeologia biblica e scavano in un'area e tutto quanto. Poi è un'area molto grande, per cui che fanno? Chiamano a raccolta i giovani di un kibbutz là vicino, e questi giovani sionisti contenti vanno a fare questa cosa, e allora si vedono queste fotografie di questi giovani ai tanti che stanno lì, aiutano a trovare, a scavare, a cercare tutto quanto, eccetera. E tutto il racconto di questo scavo, di questa cosa, è un racconto che alla fine avviene... interloro, non so come dire, no? Fra loro, cioè ci sono degli archeologi di Israele, poi ci sono dei kibbutzim che stanno lì e scavano, ma intorno cosa c'è? No? Intorno non c'è niente, non c'è nessuno, soprattutto terra deserta, no? E questo è il classico pensiero colonialista, cioè io vado in un posto e mi ci metto perché non c'è nessuno, invece no. Non è vero che non c'è nessuno, no? E proprio il libro, il dispositivo di questo libro, in realtà eliminava completamente l'esistenza di qualcosa attorno a questo sito archeologico. C'erano soltanto i valenti archeologi e i fantastici giovani del kibbutz che facevano questa cosa per riportare alla luce questa antica città, eccetera. Se ci pensate, quando si parla, no, di palestinesi, ma non da oggi, purtroppo oggi è ancora peggio, ma da sempre c'è sempre questo, no? Come dire, non sono palestinesi, sono arabi. Io, per esempio, quelli di Gaza li chiamo i Gazawi perché sono di Gaza, gente di Gaza, no? E c'è sempre questo un po' parlare, ah, perché gli arabi non hanno voluto, gli arabi non hanno... Già dire arabi è un tipo di essenzialismo. Già vuol dire che tu non li collochi geograficamente, come se fossero degli abusivi lì, capite? E c'è molto da fare da questo punto di vista, c'è molto proprio da guardare in qualsiasi, perché non ci sono solo i giornali che non dicono le cose, c'è anche intera letteratura, ci sono intere biblioteche, no? che in realtà custodiscono questo tipo di sapere su cui non è stata fatta una critica. Grazie di avermi accolto qui, è un'iniziativa bellissima, grazie veramente. Grazie Lorenzo, io lo so che non è geografo, eh. L'ho detto perché avrei dovuto dire orientalista, che è peggio. No, vi dico, volevo parlare anche di Said, di orientalismo e della bomba che provocò nell'89 quando uscì in Italia, e nell'ambiente appunto degli studi orientali e tutto quanto, però questa è una cosa che magari racconteremo un'altra volta, dai. Risposte. Rimango qua? Io volevo ricordare una frase di una collega bellissima, anche la collega è bellissima, che ha detto la complessità comincerà quando finirà l'apartheid e il colonialismo in Palestina. E quindi proprio per combattere questa complessità che ci ha travolto e ci ha paralizzato come antropologi, anche io sono un'antropologa, e mi ricordo che in questi mesi ci siamo tutti aggrappati al diritto internazionale, che se nasce come dispositivo coloniale, in questo periodo mi sembra che invece abbia subito forse, non so Enrica, una trasformazione, cioè nel senso tutti noi, proprio per superare questa complessità che ci faceva brancolare tutti quanti nel buio, ci siamo aggrappati tutti quanti alla rivendicazione del diritto internazionale, tutti noi docenti, studenti, e quindi mi sembra che da strumento del colonizzatore, come dicevi tu, è diventato adesso tutto a un tratto invece uno strumento che ci parla di qualcos'altro. Io mi ricordo un'intervista proprio a Triestino Marinello il 26 gennaio, che era quasi emozionato, o forse era emozionato, con la risoluzione della Corte Internazionale di Giustizia. Cioè la Corte Internazionale di Giustizia fino al 26 gennaio non si è mai pronunciata in questo modo nei confronti di un alleato statunitense, sostanzialmente. Questo ci dà appunto la cifra di quello che dicevi per quanto riguarda il diritto internazionale come dispositivo, no? E coloniale, postcoloniale. E invece lì sembra che sia accaduto qualcosa e tutti noi ci siamo veramente aggrappati a questo diritto internazionale come qualcosa che forse stava cambiando qualcosa, anche quello che è accaduto poi con la Corte Penale Internazionale, che poi non ho capito però come è andato a finire. Ecco, questo. È una specie di domanda. Mamma mia, allora, questa è una domanda interessante, complessa, in cui io do una risposta posizionata da giurista, cioè il diritto non ci salva, Cioè la gente ci salva e il diritto dovrebbe essere funzionale a quello. È molto importante quello che è successo, è estremamente importante dal punto di vista culturale, poi non ferma niente, cioè non lo ferma il genocidio, non ferma nulla. Però è vero, diciamo così, che ci fa vedere una cosa, secondo me, estremamente importante. Ci fa vedere che quell'uomo bianco, maschio, che brandisce il capitalismo vorace e estrattivista è una piccolezza e che il resto del mondo invece ci guarda appunto un pochino come una piccolezza in via di estinzione. Questo ce lo dice. Il problema è che non ferma questa guerra. E l'altra cosa è vero, Triestino era emozionato e lo eravamo tutti, non solo Triestino. Purtroppo le cose che scrive Triestino le dobbiamo leggere, lo so, mi viene un conato, insieme a quelle di Pane Bianco sul Corriere della Sera. Cosa ci dice Pane Bianco sul Corriere della Sera? Che le Nazioni Unite sono finite e che quello che ci dice Guterres, ci dice la Corte Penale Internazionale, ci dice non è altro che il discredito totale di un'organizzazione, ma te lo dice chiaro e tondo, perché non è ipocrita, te lo dice chiaro e tondo, di un'organizzazione internazionale che era pensata per noi, per i nostri valori occidentali, e che viene meno al suo mandato. Ti sta dicendo quella roba lì. Ora, appunto, non lo so che altro tipo di risposta dare. Una cosa mi preme, che è interessante in questo momento di guerra culturale, no? Si brandisce appunto il discorso... Allora, non si sa perché quando l'identità viene rivendicata da, appunto, dai palestinesi, viene rivendicata dalle comunità nere e così via negli Stati Uniti, noi intellettuali liberali abbiamo questa ossessione e urliamo: oddio, la politica dell'identità. Ma che cosa stiamo facendo noi quando andiamo ad ammazzare la gente in nome dei valori occidentali? Stiamo facendo esattamente questo, un identitarismo coloniale. Il diritto, da questo punto di vista, secondo me è interessante, appunto, perché è vero che il diritto è un dispositivo coloniale, però è vero che è quel dispositivo globale che anche l'altra parte del mondo utilizza in senso rivendicativo, e questo lo rende sicuramente interessante. L'ultima cosa che volevo dire, riferita a quello che ci diceva Lorenzo, ecco, io sono un po' meno ottimista sul potere della cultura e del sapere. Cioè, a me sembra, io mi occupo di migranti da 15 anni, no? E un po' quest'idea di più, forse, no? mi sono ringiovanita da 20-25, però quest'idea che conoscere, sapere è un passo avanti, io comincio a metterla in dubbio. Cioè, ci vedo proprio un voyeurismo malato. Non è possibile che diciamo che non sappiamo di 26.000 morti nel Mediterraneo. Oggi un'altra imbarcazione al largo della Calabria non è naufragata, sono un'altra strage dei confini, 50 persone. Non è possibile che noi non diciamo, che non vediamo cosa succede a Gaza. E io penso, e lo dico con un po' di pessimismo, che purtroppo ormai questa cosa non solo sia sdoganata, però da una gran parte ormai della maggioranza della gente che ci circonda venga vista come la modalità attraverso cui noi gestiremo le nostre crisi, da quelle della cosiddette popolazione in eccesso, alle crisi ambientali, alle crisi delle risorse. Questo mi spaventa moltissimo. Ecco. Io penso che questa questione del voyeurismo del sapere è importante, perché si collega per me con quello che avevo letto prima di Bookchin, no? Con la professionalizzazione tu ti converti in un esperto di osservare e descrivere, e poi non importa neanche se ti ascoltano, né se queste descrizioni e se queste osservazioni portano da qualche parte o sono solo funzionali ai profitti di altri. E volevo fare una domanda a Francesca Oreste rispetto proprio a questo, a partire da quanto in realtà poi nel momento vero di un conflitto reale in cui le persone mettono in gioco i propri corpi, si mettono nelle tende lì davanti all'università affrontando la polizia eccetera, e a farlo sono, diciamo, se l'industria dell'università è un'industria del sapere, sono gli ultimissimi gradi, cioè gli studenti, le studentesse, e non ricercatori, docenti e tantomeno naturalmente i presidi. E lo volevo chiedervi il ruolo che hanno avuto in questo periodo, perché poi ci sono stati invece docenti, appunto, come Riga, come tanti altri, che sì, che hanno preso delle posizioni, però insomma volevo chiedere a voi come come avete visto i vostri insegnanti, insomma, in questo periodo, a partire, e qui ritorno alla rivista perché io mi ero quasi dimenticato, ma questa è la presentazione della rivista Lo Stato delle Città. L'editoriale di questo numero inizia così: è un editoriale della redazione, che è la redazione di Monitor, che è la casa editrice dello Stato delle Città, e dice questa frase che va proprio nella direzione del voyeurismo. Dice, si chiama Con gli studenti e le studentesse: il numero delle pubblicazioni scientifiche sulla Palestina dagli anni 90 a oggi è arrivato a 1.300.000, ha spiegato in una conferenza Ruba Sali, professoressa palestinese all'Università di Bologna. Ognuna di queste pubblicazioni ha contribuito alla carriera di uno o più ricercatori, al ranking di un dipartimento universitario, ai profitti di un editore. Ma dove sono adesso tutte queste persone? Grazie mille per questa domanda, perché poi è il punto di arrivo, ecco, di queste riflessioni. E sì, la mobilitazione parte dagli studenti e le studentesse, che spesso sono considerate i corpi più privilegiati per iniziare magari una mobilitazione. Ma in realtà abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno del sostegno di docenti, ricercatori, dottorandi, eccetera, e sotto tanti punti di vista. E, in università noi, prendendo l'esempio della Sapienza, perché poi è quello che insomma viviamo, conosciamo, e, ad esempio nella facoltà di scienze sono anche riusciti, lì c'è un nutrito numero di docenti a sostegno degli studenti, e sono riusciti a fare un'assemblea di facoltà informale, e il 25 giugno poi ci sarà quella formale dove produrranno un documento tutte insieme sul boicottaggio accademico da presentare alla rettrice. Ora, magari non sarà ovviamente il punto di svolta della mobilitazione, però almeno è un precedente che fa anche capire che c'è una comunità accademica dietro al sostegno di questa mobilitazione, non di studenti e studentesse con tanto tempo da perdere e poca voglia di studiare. A Lettere in particolar modo, ecco, noi abbiamo anche cominciato a metterci in contatto con le docenti, e proprio per attivare questa rete e avere sostegno come comunità accademica alla lotta, però anche per iniziare magari a un ciclo informativo, quindi organizzare delle iniziative, che poi è quello che ci interessa, cioè creare una narrazione, dare informazione alla comunità studentesca di quali sono le implicazioni di accordi, scavi archeologici e un determinato tipo di studio improntato sul colonialismo. In dipartimento, ecco, di archeologia è molto difficile in realtà, noi ci siamo messi in contatto con delle docenti che insomma ci hanno detto che sono disponibili a darci una mano. È molto difficile soprattutto per quanto riguarda gli scavi orientali, perché comunque i docenti che hanno gli scavi orientali, sembra paradossale, ma sono proprio quelli che meno si espongono, perché sono... Però inizialmente, se uno ci pensa, sembra paradossale, perché comunque magari un docente che ha lo scavo in Siria, ha lo scavo in Turchia, è più sensibile al difendere appunto il... Esatto, perché può anche appoggiare il boicottaggio accademico in questa situazione, e lo appoggia sicuramente, però appoggiare il boicottaggio accademico in questa situazione significa creare un precedente, perché poi magari la ruota gira e la professoressa che lo scavo in Egitto un domani può non dover appoggiare il boicottaggio accademico per il suo scavo. Quindi comunque è una situazione molto complicata e difficile da... da tirarci fuori, però insomma questo è i docenti, ricercatori, ricercatrici e dottorande che sono, insomma, che appoggiano, comunque ci sono, e quindi si cercherà sicuramente di fare un lavoro insieme. Anche ora con l'inizio del nuovo anno accademico, proponendo delle lezioni di archeologia decoloniale, dei laboratori, perché poi noi facciamo anche tante attività pratiche nel nostro corso di laurea, quindi può essere anche quello un modo di informare e fare veramente qualcosa di pratico. Sì, ovviamente ci sono facoltà in cui magari c'è una presenza più forte di studenti e studentesse che si mobilitano, come lettere, fisica, ingegneria, la sapienza, sono queste più o meno le scienze politiche, le facoltà più che si sono attivate. Però sì, noi facciamo parte del coordinamento dei collettivi della sapienza, esiste questa realtà, questo strumento di cui ci siamo dotati proprio per mettere insieme le varie esperienze. Per esempio noi a Lettere stiamo cercando di fare quello che è stato fatto nella facoltà di scienze, che sarebbe fisica e chimica, cioè l'assemblea con docenti e con, insomma, chi attraversa lo spazio universitario della facoltà per produrre un documento da far sottoscrivere, poi cioè andando sempre dal basso verso l'alto, verso i vertici dell'università, perché da parte della rettrice del Senato Accademico è sempre stato un muro di gomma, un totale non solo silenzio ma anche repressione e contrasto. Cioè il Senato Accademico, che si riunisce ogni mese, spesso ha prodotto documenti in cui rifiutava il boicottaggio accademico portando come tesi a sostegno la libertà della ricerca, che è una roba, cioè, che si commenta da solo. Infatti secondo me, cioè, proprio questo tipo di cultura coloniale sta arrivando a un vicolo cieco, cioè, Israele stesso secondo me è davanti a un vicolo cieco, ma proprio nella sua condizioni di esistenza, cioè ormai si è cacciato in una situazione in cui non si può più tornare indietro, quindi le tesi a sostegno della cultura coloniale, del sistema coloniale sono ormai evidentemente paradossali, sì, sempre più cioè la libertà della ricerca è ovvio che contrasta con l'oppressione di un popolo, ma non c'è neanche bisogno di argomentare, cioè è un dato di fatto. Però la ricerca, con questa operazione di appunto chiudersi nell'accademia, chiudersi in una torre d'avorio, è come se si potesse sostenere che non ha implicazioni sulla realtà, quando in Sapienza ricerche in ambito scientifico sono finanziate da Leonardo, che produce armi che manda Israele, ricerche in ambito archeologico vanno a produrre scavi che giustificano la colonizzazione di quell'area, cioè è palese la complicità della ricerca. Un po' evaso la domanda, però è per dire che sì, in Sapienza almeno c'è una forte connessione tra studenti e studentesse, ma anche docenti tra le varie facoltà. Nell'Alta Università di Roma, non so se puoi dirci qualcosa tu, però è meno presente, diciamo, la forza mobilitativa. E invece abbiamo fatto il 2 e il 3 giugno l'Assemblea Nazionale alla Sapienza, in cui erano presenti più di 20 città da tutta Italia, e diciamo, è stato l'inizio di un percorso, cioè da anni ormai il movimento nazionale non si vedeva banalmente guardandosi in faccia, è stato un momento importante per quello, ovviamente un inizio di un percorso mobilitativo e di critica che va anche oltre la singola questione palestinese, perché appunto la questione palestinese stessa è sintomo di di un sistema più ampio. Si è a lungo parlato anche di laboratorio Palestina, no? Cioè, la metropoli è la nuova, cioè ci sono dinamiche coloniali anche nelle città che viviamo, anche all'interno tra nord e sud Italia, però vabbè, sono tematiche che vanno oltre. Per dire che la questione palestinese riguarda non solo chi sta venendo ammazzato in Palestina, quindi ovviamente lo riguarda in maniera più grave, ma anche noi che siamo qui, come si diceva all'inizio di in apertura di questa iniziativa. No, io volevo solo aggiungere una cosa che forse chi non frequenta l'università ha meno presente. Cioè l'università dalla Gelmini negli ultimi 15 anni cioè, si è proprio costitutivamente modificata. Ormai non ti finanziano per, se ti vuoi far finanziare un assegno di ricerca, un dottorato, cosa fai? Un qualunque ricerca devi praticamente ormai rivolgerti, cercare i fondi fuori. Quindi ad esempio un posto come Roma 3 è un'università dove Leonardo a man bassa, cioè abbiamo il tecnopolo, tutto. Noi a giurisprudenza con la Fondazione Medor, ad esempio, facciamo la formazione delle elite di paesi come la Somalia. Dirai già che non c'è l'Eritrea, però insomma non è che siamo proprio, capito? E quindi ormai i soldi nell'università arrivano sostanzialmente così, quindi questo rende veramente molto difficile fare ricerca indipendente, fare qualunque cosa indipendente, e i rettori sono tutti dentro il consiglio scientifico di Medor, non tutti, qualcuno si è dimesso, però insomma nelle università romane ci sono tutti, se non sbaglio, inclusi anche molti docenti. Noi siamo un dipartimento di giurisprudenza dove insomma, siamo gli avvocati di io no, però diciamo di Eni, Enel, cioè veramente c'è la lista degli orrori, e l'università è questa cosa qui, e i soldi ormai arrivano da lì, cioè non c'è più divisione dentro le facoltà tra il sapere e i finanziamenti, ecco. Quindi lo volevo dire perché forse non è, insomma. Certo. Sì, secondo me questo fa anche pensare, poi se ci sono altre domande, fa anche pensare al fatto che una delle questioni che sono uscite ultimamente, che è quella del dual use, no? Cioè che alcune tecnologie possono essere anche usate in senso militare, per cui se uno fa un lavoro sui dispositivi ottici di precisione, e allora questi dispositivi possono essere usati anche in ambito militare. Io delle volte ho l'impressione, non so se è condivisa, che questa idea del dual use sia un po' riduttiva. Tutti i saperi, tutte le scienze possono essere usate in senso militare e coloniale. E quando i finanziamenti del MAECI per i progetti con Israele implicano i dispositivi ottici di precisione, l'uso del suolo e l'uso delle acque, sulla questione ottica, bene, vediamo chiaramente il dual use, ma gli usi delle acque, cioè, è ovvio che possono essere raccontati come una disciplina per dare l'acqua, trovare l'acqua nel deserto, ma se poi trovi l'acqua nel deserto e la dai soltanto ai coloni israeliani, è chiaro che qui siamo molto oltre il dual use, siamo proprio nella costruzione di saperi funzionali alla guerra e alla conquista. Domande? Pseudostorici e pseudoscientifici che in quel momento cercavano di dare un fondamento basato proprio tanto eccezionale che è purtroppo il ritrovamento delle mummie nei locali. Ma levando questo discorso, che poi in realtà è anche un discorso scomodo, perché poi sono state trovate in un'area che poi oggi appartiene alla Cina, sono mummie diciamo relative a indoeuropee, diciamo come fattezze e tutto quanto, insomma, quindi tanto sono altri discorsi proprio. Però questo per dire che oggi sarebbe tenendo conto della difficoltà, ma oggi forse sarebbe necessario, per quanto molto problematico, iniziare ad avere coraggio di fare, non so, delle conferenze, cose in cui si fa finalmente anche in campo archeologico un parallelo, ahimè, tra quello che ha fatto il RAEC e quello che continua a portare avanti Israele, perché purtroppo ci sono dei paralleli terrificanti anche in senso archeologico, proprio nella modalità in cui vengono portati avanti questi discorsi. Mi rendo conto da solo della difficoltà terribile, dei problemi che può incontrare un percorso del genere, ma credo che sia fatalmente necessario, tutti e mai a questo punto, cioè ci bisogna arrivare fino in fondo su questa cosa, non si sbloccherà mai questo canale. Prima di passare la parola all'archeologa, se vuole parlare di questo, direi che possiamo andare anche prima del Reich, nel senso la costruzione dell'archeologia classica nasce col romanticismo tedesco nel momento di fondazione delle radici europee e riduce la Grecia al ruolo di diciamo capostipite della razza bianca, no? Con una falsificazione, gli ariani e tutta una falsificazione, ovviamente la stessa idea delle statue classiche bianche è folle, perché le statue erano colorate, no? Sì, sì, e tra l'altro anche uscendo fuori dal continente è un utilizzo strumentale dell'archeologia che si è avuto anche nel Sud America, quindi insomma è proprio... è canonica come cosa, e sì, sicuramente ci vuole insomma anche un po' il coraggio da parte degli archeologi e delle archeologhe di iniziare questo tipo di percorso, che è molto scomodo, però paradossalmente è quello che io imparo sui banchi quando mi insegna, quando faccio un corso di metodologia della ricerca archeologica, cioè mi insegni un metodo, però poi appoggiamo tunnel e sterri che vengono fatti che proprio il concetto è questo, come si diceva prima. Io non vado alla ricerca di qualcosa, io faccio uno scavo archeologico e quello che trovo interpreto, non vado alla ricerca di nulla. E quindi è proprio questo, c'è proprio il concetto che c'è alla base che è sbagliato e che non si deve assolutamente appoggiare, e gli studenti e le studentesse devono imparare, devono cominciare a capire che non si studia aria fritta, non si studia insomma soltanto teoria, ma si studia per avere una coscienza politica ben precisa. E la ricerca non è appunto, perché poi anche molte docenti hanno risposto in questo modo, andando contro il boicottaggio, cioè che appunto la ricerca deve essere libera, ma io sto dicendo che voglio la ricerca libera, non voi che non appoggiate il boicottaggio, cioè quella che professo io è una ricerca libera, quindi anche far capire tanto agli studenti che essere in determinati ambienti, cioè intraprendere la carriera accademica, voler diventare insomma ricercatori, ricercatrici, implica però una coscienza politica che bisogna accettare di avere, ecco. Allora, se non ci sono domande, io andrei più o meno in chiusura e intanto vi ringrazio moltissimo, perché secondo me questo primo appuntamento ha visto questa, usiamola per una volta fuori dal contesto accademico, ma interdisciplinarietà che magari, cioè, è stata anche un po' complessa, non so bene anche la composizione insomma della platea, però che ha restituito secondo me una serie di punti molto chiari e di volontà anche. Il primo è sicuramente quello che ha disvelato in un certo senso, se ce ne fosse ancora bisogno, ma in realtà ce n'è sempre bisogno e va sempre bene, cioè quello che è l'utilizzo quello che Israele fa di tutte le discipline, in questo caso sociali e giuridiche, all'interno del conflitto, non da oggi ma chiaramente da decenni, e cosa vuol dire quando il colonialismo si appropria di queste discipline o addirittura dà il là perché nascano, come sicuramente la giurisprudenza, ma poi cioè in quegli anni nascono una serie di discipline tra cui anche l'urbanistica e anche l'architettura come la intendiamo oggi. Penso anche l'archeologia più o meno sia sempre in quei periodi lì, perché poi cioè, è nel momento in cui si vanno a razionalizzare quelle che sono le scienze. Però oltre a questo, che è stato un po' il cappello e che era un po' l'obiettivo anche di tutto questo ciclo, secondo me oggi ci sono stati due punti molto importanti. Cioè, da una parte c'è stata una presa di consapevolezza e cioè una resa, diciamo, di presa di consapevolezza e di responsabilità del ruolo che il tecnico, lo specialista, lo studioso, la studiosa ha all'interno, cioè, di questo gioco politico e dei giochi di potere. E dall'altra però anche la volontà, abbiamo detto prima con Stefano, ci siamo sbagliati, abbiamo detto hackerare i saperi, invece dovevamo dire hackerare i dispositivi. Alla fine però un po' va bene anche questa cosa di hackerare i saperi, nel senso che hackerare i saperi potremmo intenderlo come, io prima ho detto, restituirli all'uso, ma anche come metterli al servizio della comunità, no? Perché ci sono alcune discipline che è più facile condividere con la comunità, quelle più tecniche, parleremo anche, no, dei saperi tecnologici, quelli, cioè hackerare è più diretto, però effettivamente anche le scienze sociali, l'architettura poi è sempre un po' borderline tra queste, cioè cosa vuol dire hackerarle? Vuol dire restituirle all'uso, metterle a disposizione, quindi mettere a disposizione, diciamo, il sapere di chi ha studiato, di noi insomma tecnici, però all'interno di una comunità, per un obiettivo che appunto all'università facciamo un sacco di convegni interdisciplinari olistici, adesso va tantissimo questa cosa, ma cioè cavolo, oggi l'abbiamo fatto, cioè con un obiettivo di lotta, di militanza, che è quello comunque di far risuonare le lotte palestinesi nelle nostre geografie, perché come abbiamo detto tutti ci sono una serie di parallelismi che sono quelli che vogliamo portare. Mi piace tantissimo questa cosa che già ci avevi condiviso, non dalla parte di, ma cioè perché siamo parte di, e cioè questo penso che riassuma molto un po' lo spirito del ciclo, e cioè vi ringrazio perché penso che tutte quante abbiamo colto oggi molto questo spirito, e mi piace molto come prima giornata, quindi grazie.